ancora bacia nel muro. C'è un mondo fatto di poesie, dipinti dentro con su scritto il tuo nome. Non può essere tutto solo malinconia, ma il mondo comanda ed il mondo ti vuole sempre a disposizione, soltanto per sé. E non contano i sogni, non conta neanche l'amore, conta soltanto tutto quello che c'è. E allora tienimi dentro ancora, baciami amore. C'è un mondo pazzo di follia, ti metti di dentro con su scritto il tuo nome. Non può essere tutto solo malinconia. Quando proprio non devi credere a niente, il destino, il tempo è Dio.